adesso e non ti dico tra un'ora. È una questione politica, se è una questione politica, è solo una questione politica.